Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Quella che è una nuova settimana di Eclettica, una settimana del tutto regolare, nel senso che le quattro parti di Eclettica sono nella loro forma tradizionale. Dico questo visto che la scorsa settimana invece le prime due parti erano state leggermente diverse dal solito, in quanto avevamo guardato retrospettivamente il 2006 in termini delle migliori 10 canzoni scelte da voi. Giulio at radiorockfm.com è l'indirizzo di mail a cui scrivere nel caso abbiate qualcosa da dire, o anche solo iscrivervi alla lista nera, oppure myspace.com/eclettica. Questo è invece l'indirizzo della lista nera di Eclettica. Il vento ululava nella notte, portando con sé un odore che avrebbe cambiato il mondo. Uno spettro, alto e flessuoso, alzò la testa per fiutare l'aria. Aveva sembianze umane, ma i suoi capelli erano cremisi e gli occhi rossi come braci incandescenti. Batté più volte le palpebre, perplesso. Il messaggio era inequivocabile. Stavano arrivando. Questo era l'incipit di Eragon, di Christopher Paolini. Yeah.

E così abbiamo fatto anche un salto indietro nelle playlist di Eclettica, quelle a cavallo fra il 2001 e il 2002. Anno di uscita di Encounters, l'album dei Sofa Surfers, erano gli anni di Vienna, dei suoni lenti e dei suoni bassi provenienti da Vienna. Sofa Surfers ce li siamo ascoltati quest'oggi, andando a recuperare quindi una vecchia playlist di Eclettica con What Kind of World. E invece la puntata si era aperta con un brano che d'ora è ufficialmente disponibile, ma noi in Eclettica già trasmettiamo da ben più di un mese, quello dei The Shins, dal loro nuovo album della Sub Pop, brano dal titolo Phantom Limb. Vi ricordate, aveva fatto anche spaventare il loro discografico italiano il fatto che in Eclettica venissero trasmessi con così anticipo, ma era tutto a posto, vito a posto. Vediamo ora di proseguire con l'artista francese che di nome fa Catherine, che per questo suo nuovo disco si è accasato presso Bungalow e che ci fa ascoltare 100% VIP. We'll be right back. Dall'inizio di questa stagione Eclectic ha una sua presenza, già vi ho ricordato l'indirizzo su MySpace. E per quanto riguarda questa presenza, l'obiettivo era quello sì di farsi conoscere da chi ancora Eclectic non conosceva, ma anche poter conoscere nomi che altrimenti sarebbe stato più difficile incontrare. Proprio grazie a MySpace si è creato il primo contatto, che poi è arrivato alla trasmissione del brano in questione con i genovesi Vanessa Van Basten. Voi sapete, soprattutto se ascoltate questa trasmissione da anni, che nei miei ascolti ci sono gruppi come i Mogwai, oppure i Sigur Rós, oppure gli Isis. Ecco, i Vanessa Van Basten hanno sicuramente fra le loro queste coordinate. Il disco che abbiamo recuperato, quindi grazie al contatto creatosi con MySpace, è uscito nel 2006, La stanza di Swedenborg, e Doll è il brano che vi siete ascoltati quest'oggi in Eclectic. A proposito di recuperare i dischi del 2006, su cui per un motivo o per l'altro l'attenzione prestata era poca, vediamo anche di riprendere un disco a cui non abbiamo dedicato tantissima attenzione, un disco Domino del settembre 2006 dal titolo The Letting Go, un disco a nome Bonnie Prince Bill, dal quale ci ascoltiamo Lay and Love. From what I've seen, you're magnificent. You fight evil with all you do. Your every hand is spectacular. It makes me lay here and love you. From what I hear, you're generous. You make sunshine and glory too. When you walk in, makes me lay and love you. running back in silence just to tell us. Blowing across the harbor is not jealous. At the twilight's last gleaming, we'll open our eyes and dream of conviction. Goodbye. I was dead right. It's fly-by-night arrangements to be trusted. And if I'm honest, I would tell you it's the last thing that I wanted. At the twilight's last gleaming, we'll open our eyes and dream of conviction. Goodbye. Vi ricordate The Walkabouts? Penso ve le ricorderete. Ecco, in questa eclettica un po' strabica che guarda al passato ma guarda anche al futuro, abbiamo chiuso questa prima parte guardando al futuro. Un album in pubblicazione il 26 di gennaio, ci sarà tempo per parlarvene. Eclettica, fine della prima parte.